una situazione da delirio, qua ti stanno spingendo, non sapevo neanche dove, perché qua poi è finito il pezzo, ci sta spingendo praticamente in mezzo ai boschi o una cosa simile, si sta malissimo, l'immediate center è andato. È stato travolto, distrutto tutto? Non ancora, ma non riusciamo a vedere più niente perché ci stanno proprio gasando di brutto. Ma tutti, ormai praticamente tutte le i resistenti Notav, tutti riuniti lì sul piazzale e spinti dai birri. Praticamente ci stanno spingendo dentro ai boschi. Dentro ai boschi con tutto il fumo dei lacrimogeni. I lacrimogeni hanno beccato le tende, sono bruciate. Adesso ci sono... un po' di gente ha preso dei sentieri per i boschi, solitamente in direzione della Rabat. Quindi, insomma, chi è lì cerca in questo momento un rifugio in mezzo ai boschi della Valsusa, spinti. Sentiamo veramente anche altri messaggi che ci sono arrivati, dicevano di veri e propri gasamenti in tutto il piazzale. Sentiamo appunto Luchino. Niente, non riesco a parlare, dopo. A dopo, Luchino, a dopo.